di casa in due occhi. Puttata, il sito rosso. perché ci sono quelli che fanno anche queste cose, già lo sai. Vabbè, la stampa non si può salvare. Non è una stampa, un supporto del motore. Che salvare, non puoi fare niente. E come è collegata al motore, come bullonato. Sì, bullonato. Ma dopo domani la porto, la faccio sistemare subito. Con il cambio regime con le candele nuove, rimane lì sono un po' goi. E via. Ma le avevo cambiate le candele. Guarda, mi faccio una piccola manutenzione. Non è da tirarsi i capelli. Capito? Vabbè, ma ne fatti 20.000 km con le candele, perché ogni 20.000 km si cambia. Ma dice lo meccanico, grazie, che secondo lui sono un po' gare da terra. Cioè, un po' strano a me. Sì. 20.000 km ti avviserà. Allora sì, allora è ragione. Ma anche io devo fare il tagliando, ma aspetto, aspetto. E lo faccio a dicembre. Ciao. Il mio, poi non mi ha segnato, quando devi fare il cambio di luglio ti segna la chiave, ma siccome avevano resettato tutto, già lo sai, no? Hanno resettato tutto, quindi è possibile che abbiano resettato anche il coso che ti dà, l'icona che ti dà per il tagliando, capito? Quindi adesso parte da zero di nuovo. Stavo avvisando per andare. Hai visto? Recuperati il vasino quello con gli animali, con i giz, eccetera, che bello. No, l'ho comprato sì. Poi vedi, adesso almeno non stai a cambiarlo tu. È già una cosa in più. Sì, ancora un po' già. Ma piano poi si abitua, dai. Dicendo che adesso la metto un po' tutta a posto e va bene. L'ultima volta me le hanno cambiate io le candele. Ho comprato il 4 novembre, ne ho ricata. Adesso non penso che... L'unica cosa tu delle candele è aspettare sempre che la macchina sia fredda. Un amico mio l'ha cambiata a macchina calda e gli ha spanato la filettatura. Ha dovuto rifare la filettatura nuova. No, io la sento che sia fredda, no? Non le posso mai dire che travaglio. No. Assolutamente no. Adesso, ecco, mi tu libera in mano, quelli posso chiamare. Non sai, più male che un pareggio tutto. Se tu libera in mano, è tu capito quelli posso chiamare. Energica ma con delle buone candele. Io li uso per la moto, capo, inizia. Secondo me a per esempio mi ci sono sempre bruciati. A più che esempio a me. Mosce, ma niente i mariti. Sono tutte buone con le candele. No. Energica per la moto. No, non ci sono storie. Non ci sono storie. Io queste Energy K non le conosco nemmeno, figurati. Io ho sempre usato Bosch o Magneti Marilli come candele. Sono buone perché io sin quando le cambio non mi danno nessun problema di messa in moto né niente. Metto le moto al primo colpo. Però ho dovuto cambiare, una volta ho dovuto cambiare la bombina che c'era imbarrata. Tutte le bocche aggiornate già, magari che se ve le sto per sottare un culo. sono rimasto alle marche grosse, diciamo, dai. Quelle che vanno di più. Quella che va di più è l'NGK, va detto. Tutto primo impianto. Stanno dando quasi tutti NGK come candele. Cioè anche tutte. Da fare la padrona adesso questa casa giapponese ha messo a sedere tutti, cioè fa cavi, produce cavi, caffetteria di tutto, cioè è una casa all'avanguardia, forse la più grossa che ci sia al mondo, una tra le più grosse che produce candele e parti elettriche. Sarà una cosa nuova, io non mi sono aggiornato su queste cose, no, io sono rimasto in vichitino. Sì, se magari vorrei tu non lo sai, se ce l'hai tu non lo sai, insomma, perché fa candele, fa iniettori per ricordo, candelette per ricordo, per i diesel, tante cose fa, oramai è a livello di Bosch, cioè. Forse questi giapponesi hanno fondato pure, capito? Hanno fondato e sono i leader, sono attualmente, cioè, si monta anche, cioè, i sistemi NGK li montava anche Ferrari, immaginate di tutto. Lavorate a tu. Sì. Ma tu mi hai una frecciolata. Ma cosa? Il cimitero, la messa c'era ieri, avevamo messo l'amplificazione. Ah, è caduti. Fanno tutti gli anni la messa. Ma poi si buona cantata. Fanno la messa ai caduti di guerra, così. E io sono andato un giorno prima al cimitero, così sì, c'era traffico, però ho trovato subito il parcheggio. Ma se andavi oggi, lui. Non so. Secondo me. C'era la cosa, c'è il coro che fa la canzone, il prete che fa la messa, capito? Noi da molti anni che le facciamo. Potrebbero avere dei problemi. Le piante live no. gli impianti quelli che si usano negli stadi, nella cosa, non li fa niente l'acqua, fanno anche la prova, fanno. Lui cioè, l'impianto suonando, no, hanno dei codici particolari, hanno che non entra acqua, capito? Cioè, quel tipo di impianti lì. Se ti bagni il tubo è inutile che fa bagnare il piatto, non si fa nulla, ti fa di giù, è un casino. E allora parlano, non posso, vabbè, che lo fanno, l'hanno fatto dove ci sono i campi di guerra lì. All'ingresso lo fanno. Ah, all'ingresso dove c'è la cappella. Sì, gli anni lo fanno lì. Capito. Perché le casse, quelle che sono i grandi pianti, non entra acqua, capito? Sono fatti, sono termici dentro, no? Invece le casse attive come quelle normali, sì. Gli verrà e vai, è pericoloso. Vabbè. E vabbè, mangia. Una cosa da niente, dai, cioè nel senso era una cosa veloce da fare. No, per un medicato attaccabile, ricordo, perché devono essere i microfoni per il cuore, i microfoni barombrese, poi cioè, suonano pure, capito? C'era uno che suonava la chitarra, l'hanno scorso una chitarra in tastiera, cioè, hai capito? C'è un bel po' di roba attaccata. Insomma, è fuso un poco di niente. Sì. Via. Purtroppo. E l'hanno rimandata oppure niente? Finita. No, non è rimandata la mia. Finita. L'hanno fatta la veloce e buh. Al prossimo anno. Ma la giornata voi ve la pagano lo stesso. E già non credo me l'avete pagato, rata. Adesso sei uscito più forte, cosa hai fatto? Ti hai messo il microfono vicino? Sto coricato. Eppure io sono sdraiato e sto prendendo un po' di relax. Stavo facendo un sacco di roba a casa. Faccio pure un cucito oggi. E scappa. Una pizza l'abbiamo mangiato, ma adesso avete già mangiato? Sì, ho fatto una pizza, fatto. Tu l'hai fatta? Sì, non ci vuole niente, lo vendono la sfoglia per farla. No, io facevo quella barilla, proprio la facevo io, l'impasto, tutto quanto, ma non esce mai come quella come quella della pizzeria, boh, non capisco perché. Guarda che se ne fa. Fanno già la base, già pronta, ne metti il sugo, la mozzarella e sei al dente. Sì, quello sì. Quella lì è già pronta, sì. E se non ricordi quando c'era quell'alcino, come si chiamava, quello con i baffi, Antonello mi pare, quello che aveva la pizzeria lì, in via dove c'era la Sisa lì. Che adesso c'è la macelleria, c'è una paninoteca, ce l'hai presente? Sì. E quello ci portava al Ciso, l'ultima teglia la lasciava per il Ciso, lo faceva l'ultima teglia e quando veniva ci portava le pizze, oppure un pizzetto al taglio. Erano buone le pizze fatte da quell'uomo. E poi il socio l'ha fatto la forca, se n'è andato senza pagare tutte le cose, l'ha lasciato in mezzo ai casini e ha dovuto chiudere. Sì. Mi ricordo che c'era la moglie, io non l'ho più vista quella donna. No, è morta. Prima la vedo sempre con lui, adesso vedo sempre lui da solo. Allora io ti aggiorno. Sono guardi zuffile tutti e due, no? E un giorno sono venuti in piazza della Meridiana e hanno controllato a Tyson e altri cani che c'erano, poi mi hanno salutato, me li conosco. E lui mi ha detto che lei ha avuto un ictus, c'era anche lei, però se l'aveva passato, però non la volevano più nelle guardie zuffile, ma ci andava lo stesso per fare compagnia a marito, perché aveva avuto questi ictus, non volevano più che stesse. Poi non so a tu, che lei era bassottina, carina. Mi ricordo. Io vedo sempre a lui ogni tanto lo vedo, lui è vivo perché l'ho salutato anche l'altro giorno, ma a lei non l'ho più vista, non ho saputo nulla tu in merito, però era una persona di cuore, era molto di cuore, tutte le sere portava le pizzette a tutti i volontari. L'ultima infornata la faceva per loro. Io mi ricordo, ma era anche pratico, era bravo a fare quel lavoro. La faceva, sì. A me uno una volta è entrato e ha detto, mi sa messo di ecco dal capo. Cazzo tu salì la valla, cazzo c'era con la terra rimbalza, l'ha detto. Ma erano amici di qui. C'era io dentro la pizzeria quando gli ha detto questa cosa. Però ce l'ha mangiata. Era di Vicindusi, e lui gli ha detto, te la rifaccio se vuoi. Ah, oh, già che te lo rifaccio, tanto lo riservato i bici. A chi lo ti l'ha di, lo so, a cui gioca, che cosa del genere. Però io l'ho mangiato ed erano buone, no? Chissà quello lì che come la sentivo, magari l'ha fatto, no? E la sentiva diversamente. Adesso è cattiva. Io non mi ricordo che faceva quelle tombe, erano molto buone, erano. La gente è cattiva già. Sai che ha di cui un ciapapocca. No, ma lui era buono, la grossa me l'ha preso da buona, tu. Era buono come animo proprio, era di quelli che si tirava il cuore. Aveva piantato delle rose lì al Ciso, delle rose così belle, aveva fatto l'incrocio tra rosa rossa e gialla, erano uscite tutte screziate, ma così belle quelle rose. Sì. Oh, è durata un bel poco questa pizzeria comunque, me lo ricordi? Allora, lui era in società con uno, poi se n'è andato, gli ha lasciato, avevamo pattuito di pagare tutta metà in società, e invece se n'è andato e non ha pagato la parte sua, lui non ce l'ha fatta e ha dovuto chiudere per quello, se no lui andava avanti. Adesso ci sono, sono serpenti, sono maledetti, sono, ma purtroppo la gente è cattiva. Ma infatti a me quante volte me l'hanno detto, io ci prendevo il gomone in società per andare a pescare, gente che pescava con me. Non l'ho mai voluto fare, perché poi ho saputo di gente che se l'ha preso in società, l'ho bisticciato, serviva uno, serviva l'altro, magari la domenica uno voleva andare con la famiglia, l'altro lo stesso, e bisticciavano, capito? È sempre così. E questo è per le casate, poi quando sono cose grosse è ancora peggio, perché ti lasciano i buffi. Purtroppo è così. Purtroppo cosa vuoi fare? Non tutti siamo uguali. Ho capito. Vabbè. Purtroppo. Aspetta, mi stanno chiamando al telefono. Qui Scarbi cerca Capra Capra, rispondi Passo. Pirata modulazione da Marrizza, mi sente qualcuno a passo? E allora che si dice gente? Faccio nessuno in ascolto. Pirata in ascolto. Pagare a bordi. Qui pirata, ti sento molto basso, chi sei tu? Mi pare che fa un'antenna di gomma. troppo basso. È impossibile. Cioè, mi stai arrivando 9,1 io 2, ma cosa si intende? Vuol dire che c'è la parecchio chiuso, cioè. Come ci arrivo lì? Whiskarmi c'è cacapra, mi passo, ma tutti a zero zettero. Rocco cerca Eva, rispondi! C'è che fa casino qua! Attenzione 10! C'è nessuno! Uno, due, prova! C'è nessuno, mi sentite? Cambio strumento! Prova concordata, avanti! Tappa avanti! Avanti! Buttaci via tutto! È impossibile che esco basso io! Ciucucciù! Avanti. Ah, già eri tu, Io ho fatto ciucucciù, vi stanno portando a muzza. Adesso vediamo che c'è. Ah, ma c'è questo che sta chiamando, ma no. Cioè, gli dico avanti. Ha problemi, deve essere lui. Non, cioè, dice che non ci sente. Sì, può darsi che abbia le refreghine abbassato, avanti che chiama, oppure Giugendi. E Bianco, come va? Eravate in ruota? Gente c'era. Dove c'era Gialle? Io ero, attaccato alla TV, eccetera. È andato a vedere chi c'era. Qui c'è i suoi radioamatori che stanno parlando. E fra poco mi organizzo la cena, dai. Ma sempre in quel canale là? Come? Per quel canale là. Gabriele Abbondi, sempre in quel canale là. 525, canale monitor, Sassari, VHF. Che se mi aumenta assaglia, va. Ma non mi ha svoltato la cosa, che non me lo ricordo più. Vabbè, di dominio pubblico, 145.525, non è un segreto di Stato, no? E tu cos'hai sempre, il bau bau? Ora, 145.525. Ho chiesto se bevi ancora il bau bau o è un ricevitore. Cazzo, Gabriele, non capisco niente. Cosa hai detto? Uno? Ho detto il bau bau. Andiamo il bau bau. Aspetta, dimmi la frequenza. 145. 5, 2, 5. Sento un cazzo. Quella. Oh, basta, che devo capire qua. Mamma mia, non capisco un cazzo. Monello sta diventando. È fissato un di macchinette, è fissato. Quando papà parla al coso, fallo sentire. Ehi, già lo sento. La cintola, fai fischiare la cintola. Allora, 145. Tanto, 5, 2, 5. Come lì ci muoviamo, chiamele mie. Già li senti, sì. Dove non intendo? Io ho detto il bao bao, sai, il bao feng mi. No, c'ho l'altro arango, perché il bao feng mi si è guardato. Ehi, ce l'hai sempre l'antenna sul tetto, per quella banda là? Non l'ho mai avuta io. Oh, ricordavo di sì, ci sentivamo una volta in PMR, ti ricordi? Allora io dico l'antennino, cavolo. Ehi, c'ho l'altro, io c'ho quello arago. Arago, come si chiama? Che è uguale al Baufeng, non cambia quasi niente, capito? Sì, c'ha tanti nomi. è quello che mi avevi mandato tanti anni fa, mi avevi mandato la foto, mi pare. Ecco, tanti anni fa. Quanto? Che qua? No, non è tanti anni fa. Ragazzi! Ancora sì, fermati bene, apri! Avanti, Giubrecco! Qua pirata e modulazione, provando un nuovo strumento, come mi sentite? Segnale 8, radio 5, buona! Quindi mi ricevete bene? Eccellente! Io vi sento molto molto bassi, dove state vi chiamando? Sassari, latte dolce, mi pare, Antonio e Cappuccini alta da questa parte, avanti col nominativo. Tu mi arrivi a 3.5-4 qua. Sì, ci interessa il nome, così sappiamo come chiamarti però, dai. Pirata, pirata. Anche noi siamo pirati, tutti pirati siamo. Tu vai. E allora tutti in greffa, qua pirata la marrizza. Chi la marrizza? Tu chi sei? Aspetta, ho attaccato la ventola, sennò si è bruciato tutto qua. E Budendi sa cosa, boh. Allora, Marco, da questa parte, poi l'altro è Antonio. Vai, Antonio. Papà, scusate, perché mio figlio mi sta... Mamma mia, me ne mangio niente un capo. No, tu caghi su! Madonna, oh! Mamma mia, gatto! Vedi quasi tutti i colori me ne combina, Marco, di tutti i colori. Non tocca nulla, aspetta che sto lavando. Ti faccio vedere com'è l'ana con me. Alonso! Papà Alonso! Tieni! Papà! Papà, tieni! Cazzo, l'ha portata a Bessa, Zeno! Adesso ti inverte i poli e ti brucia tutto. Pericoloso, Guido, ya. Ti ho mandato la foto. Aspetta, il cellulare non ce l'ho qua, poi lo guardo. Però mi pare che me l'avessi già mandato. Va bene, avanti la micro di Marissa. Sei in barra mobile? Sono in barra fissa. Ah, ok. Beh, più o meno il segnale potrebbe andare bene, no, Antu? Però riceve basso lui, come mai? Forse all'RF Gain basso, non saprei. No, non posso basta! Guarda, mi hai fatto un casino in occhi. Mamma mia, qua. Ecco, avanti. C'è qualcuno sopra che schiaccia la portata e non si sente niente. Chi era? Roberto? Io ho chiamato adesso, non ho schiacciato nessuno portato, in questo istante ho schiacciato. No, Roberto, perché ho sentito la tua voce e poi ho sentito come un segnale che attaccava e non attaccava mi la portante. No, non è lui, io quando ho chiamato un secondino, poi ho schiacciato l'accordatore, tac, un attimino, e basta. Come mi state ascoltando con questa radio? Ho sentito Antonio di sfuggita, Gabriele accendo il monellino, ciao Antonio. Papà, buonasera, ben sentito. Mamma mia! Adesso ti metti i cartoni animati, dai! Marco, come mi ascolti con questa... Non dire come dice qualcuno con le orecchie. No, bene, bene. Naturalmente Antonio di radio è più bassino, no? Il volume è regolato per lui e tu quindi sei forte. Fondo scala incollato, non ti dirlo. Cioè, non c'è storia. Hola, eccomi qua. Un po' meglio va in radio? Molto meglio. Ti abbasso il microfono, lo abbasso. Scappa. Se mi tocca a tutto, Vizio, cosa posso fare? Ah, pensavo fossi basso io, tieni presente un'altra radio sto utilizzando, Marco, non è la mia solita, molta differenza c'è dal solito. Non saprei cosa rispondere perché io sto cambiando baracchino ogni pochi giorni e ogni cambio baracchino c'è una timbrica diversa. È difficile dirlo. A me sembravi tu, se non me l'avessi detto non ci avrei fatto caso. Da si intende che è diverso, via. È diverso dal solito che parlo, Antu. Sì. Questa sicuramente è un po' più bassa come radio, no? No, diciamo a molti bassi. Più normale, mi piace più l'audio, però non è male. Più normale, capito Roberto? Davvero? Vabbè, c'è da dire, questa è un'altra radio, sempre della stessa marca, però è regolata per fare altri usi, per cui la M non è che sia l'ideale, potrei entrare qua con equalizzatori e cose, ma non mi interessa. Ho voluto fare solo una prova per sentirla, il segnale probabilmente è simile, dai, l'antenna è uguale, ho commutato solo l'antenna e la potenza, adesso non so quanto ne sta dando. Ah, ma non sei con la manta, va sì. Sempre con la manta, va sì. Già, va bene. Sì, qua, guarda, potrei dire che hai più bassi forse del solito, mentre la solita è un po' più bilanciata, questa è ricca di bassi, a orecchio mio e a baracchino mio, a baracchino attuale mio. Guarda adesso, faccio una prova, guarda un po' cosa succede, 1, 2, 3 prova radio, questo è senza, 1, 2, 3 prova radio, cosa è successo? Allora, diminuita la modulazione, però si sentono troppi bassi e un pochino cupa. Era meglio prima a questo livello. Guarda, staccato il processore. Sì, ho tolto il processore, sto utilizzando adesso col processore inserito. Probabilmente spinge un po' di più. Sì, è meglio, senza è più bruttina, più bassa, più cupa. Più cuposa, si può dire cuposa. Qua sei 9 più 50 con questa radio, lo switcher digitale. L'altro, Antonio, prova un po' tu, Antonio. 1, 2, 3, 1, 3. Qua sei 9 più 30, ma siete aiutati o normale? Abbastanza normale. No, io ovviamente aiutato, che domande, aspetta che lo metto a 3 watt. 3 watt, più o meno. Guarda un po'. Aspetta, scusa che mi hanno chiamato da un'altra parte. Prova a parlare, Marco, l'ho distratto. Ecco qua, 3 watt. 9,35 qua. Siamo nella media, dai. A voglia, ce n'è per i pulsi. Io non so quanto sta arrivando, ma penso più o meno gli stessi segnali vostri. Sì, robè, qua c'ha 3 LED, LCD. È sempre 9,30 incollato, qualunque antenna ora di usi qua non fa testo, ci sarebbe voluto lo smitter del K e almeno aveva 9,60 di fondo scala, o quant'era, 9,50, non me ne ricordo nemmeno. 9,60, Robert, se mi metto a spingere forse arrivo anche più forte. Già abbiamo fatto le prove l'altro giorno. Volevo dire una cosa, chi è che poco fa ha detto, stavo mettendo portante, che arrivava intorno al 9, chi era? Tale pirata da Marrizza, zona Marrizza. Prova a mandarlo avanti, dice che a noi ci sente bassi di segnale, noi lo copiamo bene tra l'8 e il 9 e lui ci sente bassi, prova tu che sei in alto. Ma sai che cambio radio, che magari mi ascolta meglio, un attimino. Pirata, ci sei ancora? Pirata, vi dicevo molto basso. E anche tu sei crollato il segnale però, barra fissa, ho staccato. Rimetti le condizioni di prima di lavoro e io farò altrettanto, un attimino, facciamo la magia. Ecco, aspetta, dove cazzo volo è? Ecco qua. Vediamo se mi ascoltate meglio con questa radio. Ehi, guarda che è entrato l'amico, però si è abbassato lui adesso, lui si è abbassato. Pirata, vai per Roberto. Ciao Roberto, qui Pirata, lo sono io che sto mettendo portante, ci deve essere qualcun altro. Ciao Pirata, ben sentito, S8 qua, sei di segnale, Radio 5, ti ascolto senza nessun problema. Non so se tu mi stai ascoltando, penso uguale. Avanti ancora, Roberto qua a Sassari. Mi pare una antenna sorda. No, ma deve avere problemi con quella radio, perché lui arrivava a 8, 9, a noi ci sentiva bassi. O è partito qualcosa, o è inesperto, c'ha le rifiche in basso, non si sa. A parte che è crollato il segnale, c'è di 2 Santiago qua. Era 8 abbondante, è sceso a 6,5. Vediamo se mi ascolta a me. Pirata, mi ascolti? Attento, Pirata. Ecco, qua Pirata, come mi sentite? C'ho problemi con la radio sicuramente. Oh, grazie a me che è chiuso, no? 9 più 5 qua, sì. Tutto aperto qua, Mickey Game. Ehi, ascolta, ma hai altri controlli sull'apparato? Che apparato è? C'ho un'ala 68. Allora, controlla l'RF gain, RF gain, mettilo tutto al massimo, verso destra. Adesso è tutto al massimo. Guarda, ci ha migliorato la situazione. No, io l'ascolto bene. Dimmi un po', pirata, ci siamo sentiti l'altro giorno per quella radio. Davide, tu sei? Sì, sì, tu sei Roberto Quadrato. Ehi, hai dato ascoltata, allora. Cosa mi ascolti? Ti ascolto molto basso. Addirittura? No, c'è qualche problema con quella radio. Gli è partito la ricezione, non lo so, perché lui arriva bene adesso. Otto, quello smette a retirchio, no, lo sai, segna meno questo, che è tarato a 100 microvolt anziché a 50, e quindi anziché 9 segna 8, però io di più ne in gioco. No, io l'ascolto 9 più 5 senza nessun problema, prima era 8, adesso è salito un pochettino, ma sai che a me non mi ascolti. Sì, c'ha problemi la radio. Si è messo l'RF gain tutta la manetta, qualcosa c'è. È possibile, perché se a noi arriva forte, a noi arriva bene, come arriva a noi, dobbiamo arrivare a lui, se no la radio non funziona. C'è qualcosa che non funziona, capito? Perché qua arriva abbastanza bene, arriva 2, arriva 9. Cioè, come cavolo è possibile che a me mi arriva 9 e io ti arrivo bassissimo? Vuol dire che hai problemi di ricezione. Tu mi arrivi a Radio 5. Io ti arrivo a Santiago 5, sì, ma c'è troppa disuguaglianza, cioè, capito? Tu mi arrivi 9. E io almeno 8 ti devo arrivare, almeno 8. C'è troppa disuguaglianza da una cosa all'altra. Tu mi arrivi Radio 5, tu mi ricevi forte perché ho acceso il lineare. Ma... Cioè, arrivi bene qua, a casa arrivi bene. C'è troppa disuguaglianza, cioè. E io quanto ti arrivo, pirata? Pirata, ti ha chiamato Roberto. Sì, ma perché ho questo lag? Pirata, come ti arrivo io? Per me senza antenna, non è possibile. Non è possibile, no. Roberto, mi senti? Sì, che ti ascolto, 9 più 5, ti ascolto bene, senza nessun problema, anche prima. Che segnale mi dai a me? Nello smitter, quanto arrivo? Qua la lancetta, segnale mi dai che mi stai arrivando a radio 1,5-2. 1,5-2, addirittura, No, l'apparato c'ha qualcosa, dai. Ma mi ascolti chiaro? Fammi capire, o non riesci a capire quello che dico? Ti ascolto molto piano, riesco a capire quello che dici, però sei molto molto basso. C'è qualcosa allora, non è possibile che io ti ascolti così forte e tu a me mi ascolti così basso. Ma tu che segnale mi dai tu? Ma un passaggio, mica se no che sei a bomba. Sì. E infatti allora il problema c'era lui, se tu mi ascolti 1, 2, 3, prova a canale 10, 27.075. Sei quasi 9.30 qua. E allora il problema è suo, se io l'ascolto così forte anche lui, probabilmente... c'ha qualche problema di ricezione quell'apparato, non è possibile. Sì, gliel'ho detto, c'è troppa differenza, c'è. Devi capire il perché di questa differenza. Tu mi ricevi, tu ti ascolto a Radio 5, a lui lo ricevo a Radio 1 e vi ricevo bassi, eppure voi mi ascoltate bene, dovrei ricevervi bene. Sì, però tu ricevi a me perché io sono più vicino di loro anche. Io sono a Latte Dolce, sono a Lima Delta. Però io ti sento molto più forte di segnale, capito? E loro ti sentono bene, ti sentono. Roberto è in alto, che gli arrivi 9, come arrivi a me. C'è troppa disuguaglianza da come ricevi tu a noi e come noi ti riceviamo a te. Noi ti riceviamo benissimo, capito? C'è troppa differenza, non so perché, o è troppo bassa quell'antenna e non sta risuonando bene. E Marco, come lo ricevi, pirata? 7 metri l'antenna, a te ti ricevo bene, in linea, Latte Dolce, ci siamo, ti ricevo a Radio 5, a lui lo ricevo a Radio 2, Radio 1 e mezzo. E a Marco come lo ricevi? Alta nel palo, la tua antenna, quanto è alta? È attaccata al tetto, 7 metri dal tetto, Ah, Marco, come lo ricevi, pirata? Lo ricevo a Radio 5. No, no, il segnale. Qual è il segnale sulla lancetta? 1, 2, 3. Vedi un po'. Il segnale arriva a 3. Troppo. Oggi sta risuonando male con l'antenna. Dovresti provare a salirla un po' di più. Perché noi riceviamo bene, tu no, tu no a loro. Io vabbè, lasciamo perdere che sono latte dolce, ma gli altri non vanno di più, capito? Sì, può darsi che sia un Alan 68 magari datato, molto datato, chi lo sa, bisogna vedere. Va bene, signori, io mi preparo la cena. E ci sentiamo quando capita, ok? Ciao Antonio, Roberto e Pirata. E anche io vado lontano che mi stanno chiamando da un'altra parte, dai. Ciao Marco, ciao Antonio e ciao Pirata, correti da parte mia, ciao, saluto anche chi fosse in gran ascolto, canale 10, ciao ciao. Ciao ciao a tutti, dai, pure io chiudo, ciao ciao. Avanti Pirata. Ciao a tutti, comunque se avete un apparato buono, lo proviamo. Io c'ho questa la 68, questo è vecchio. C'è troppa disuguaglianza, c'è. O il coso, come si dice? Ma o lo smitter mezzo partito. Perché non è possibile. Capito? Cioè, tu mi arrivi più forte di quello che io arrivo a te. E io sono una bomba qua, minimo mio devo arrivare 9-8, 9-10 addirittura. Siamo a 10 km di distanza, mi sorcio Sassari. Magari sono un po' tappato, ma io esco forte perché ho messo il lineare. Via. Ok, ciao a tutti, QRT anche da parte mia. Ciao Antonio, ciao Pirata, ciao ciao, vai Antonio.